Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati qui su Radio Contrabbando, una nuova puntata di Zibaldone tutta musicale. Si chiama Mapuche, Cosa nasconde la mia mente, il brano con cui abbiamo aperto la puntata dello Zibaldone di questo 22 marzo, ultima puntata prima della pausa, molto breve ovviamente, pasquale, insomma ci prendiamo una settimana di vacanza la prossima, ma do subito il benvenuto, il bentornato al nostro ergonomico Enrico Banzola, conosciuto da tutti ormai come il Banzo. Banzo, bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Forse la mia celebrità non è un po' appannata in Sri Lanka, ma possiamo migliorare. Ci lavoreremo. Forse non mi conoscono. Ci lavoreremo, esatto. Ma ciancio alle bande e quindi, insomma, sì, prendiamo una settimana di vacanze perché poi moriamo e risorgiamo, ma non ci interessa. La puntata di oggi è più importante e si tratta del rapporto Italia-Marzo 2024. A che edizione siamo arrivati, Banzo, dei rapporti Italia ormai? È la terza. Esatto, perché va detto perché il rapporto Italia delle nostre serie è l'unica che non è esplicitamente numerata, credo, quindi è utile ricordarlo. Ecco, spieghiamo ai nostri ascoltatori di che si tratta, ecco, perché insomma non è il rapporto del Censis, ma è un rapporto, diciamo, più strettamente musicale, ecco. Esatto, il concetto è velocissimo e semplicissimo da spiegare, semplicemente andiamo alla ricerca di uscite discografiche italiane recenti e assembliamo una scaletta con una attenzione particolare. Diciamo che Zibaldone notoriamente è molto concentrato sulla canzone d'autore, nel rapporto Italia invece c'è un focus leggermente più spostato verso l'alternative, qualunque cosa significhi l'alternative. E prima di passare a descrivere brevemente il brano che ha inaugurato la puntata, che è molto bello, vorrei sottolineare che ci sono parecchie connessioni che tornano con nomi che abbiamo già visto in passato, etichette, e sono per lo più involontarie, nel senso che sono cose che ho realizzato a posteriori quando la scaletta era già finita, non lo sapevo magari mentre ascoltavo i brani, quindi forse c'è una specie di volontà superiore, forse sono i nostri gusti, ecco. Ma chi lo sa, chi lo sa. Però andiamo subito a bomba con Mapuche, no? Un cantautore di Catania, lui si chiama Enrico Lanza, appunto in arte Mapuche, che torna dopo 7 anni di silenzio. Sì, torna dopo molti anni, perché mi sembra l'autopsia sia del 2015, se non sbaglio, l'ultimo album precedente, torna su Zibaldone, attenzione, dopo un fugace passaggio il 28 settembre del 2012, all'epoca parlavamo del suo primo album e del suo primo mini, e qui abbiamo un disco completamente diverso, o almeno parzialmente diverso, come poetica, come ispirazione, anche perché sono passati tanti anni. Il tema dell'album è la depressione, è uscito il 4 marzo per l'etichetta catanese, bellissimo lapsus, Viceversa Records, che troveremo anche più avanti, e è prodotto da Elia Billoni, cioè l'alter ego di Dino Fumaretto, e questa ad esempio è un'informazione che non sapevo quando ho ascoltato il brano, ma poi a posteriori ho realizzato che quel tipo di arrangiamenti effettivamente spingeva in quella direzione, faceva pensare a quella mano, e Billoni ha anche suonato insieme a Mapuche, a Lanza, su questo disco, lasciando un'impronta decisiva, e l'album per me è veramente, veramente, veramente bello. Tra l'altro mixato da Rocco Marchi, un'altra vecchia conoscenza di Zibaldone, di tutto il mondo della musica indipendente alternativa italiana, è stato nostro ospite anche in radio quando è stato di passaggio per alcuni concerti a Barcellona. Andiamo oltre, troviamo un altro brano, lei si chiama Arianna Pasini, Gravità è il titolo di questa canzone. Mi trovo in una cornice. Arianna Pasini, Gravità, e do anche il bentornato a Fausto De Salvia che ci accompagna anche questo pomeriggio qui a Zibaldone. Buon pomeriggio Fausto. Ciao Steve, buon pomeriggio a tutti. Ascolta, parliamo un po' di Arianna Pasini, forse ai più non è conosciuta, lei è ravennata e quindi è dalle tue parti, si era già fatta conoscere con alcuni gruppi e però in realtà aveva anche già un LP, no? Che è uscito da un po' oltre a questo nuovo disco. Sì, no, adesso questo è proprio il suo primo vero album, ha una grandissima carriera ormai di diversi anni, anche se lei credo sia classe 93, quindi 30 anni, però ha tantissime collaborazioni, suona, mi sembra, suona nei Soviet, quindi gruppo pesarese storico, ha suonato tantissimo con Don Antonio, fra l'altro il disco è in parte registrato presso il Crinale Lab, che è la factory, diciamo, nell'Appennino romagnolo di Antonio Gramantieri dei Sacri Cuori, e quindi ha tantissime collaborazioni. Adesso è in tour con Any Other, quindi con Adele Nigro, Adele Altro, che fra l'altro partecipa anche a un pezzo dell'album, fra l'altro Marco Giudici, che è il tastierista, anche lui polistrumentista di Any Other, collabora e produce quest'album, quindi diciamo che c'è questo scambio nell'ambito del folk cantautorale con però diciamo sonorità lo-fi, lo sentiamo anche, no, di low fidelity in questo brano, abbiamo il clarinetto basso, quindi naturalmente sonorità, ecco, volutamente non dico sghembe, però naturalmente che deviano dal classico cantautorato folk come lo conosciamo, ed è un album che arriva dopo tanti anni, perché lei ha dichiarato in un'intervista di aver scritto la prima canzone 10 anni fa, quindi ci ha messo un pochino di tempo, però il risultato è più che ottimo. Verso una casa, no? Il titolo dell'album. Esatto, sì, è appena uscito e andremo a seguirla in tour, naturalmente dovrà fare il tour in contemporanea con quello di Any Other, appunto suonando con diversi gruppi, questo è chi fa il mestiere della musica di professione, d'altronde deve dividersi fra 3, 4, 5, 6 progetti contemporaneamente. Ritorniamo con a Catania dalla Viceversa Records per ascoltare un'altra voce femminile, Sara Parigi, Rive è il titolo di questa sua canzone che vi proponiamo ora. Vieni e fai, non cambi di quello fra noi. Cosa rimane? Il vero. Questa Rive di Sara Parigi è una canzone tratta da Banzo dal suo primo disco in lingua italiana. Sì, che si intitola Stanza al singolare ed è uscito il 26 gennaio 2024, mentre Rive era il singolo che l'anticipava. C'è anche un video della canzone, se lo andate a cercare. E come dicevo prima, le corrispondenze che sono saltate fuori a posteriori, perché cerco anche di scoprire musica senza lasciarmi influenzare troppo da fattori progressi. Ecco, anche questo disco è pubblicato da Viceversa Records, che giustamente è a Catania, lasciamo perdere il mio lapsus di prima, e è prodotto da Alessandro Fiori, che è uno dei nostri numi tutelari, diciamo, appare molto spesso a Zibaldone, che oltre a produrre suona anche il basso e i sintetizzatori in questo album. E Sara Parigi è toscana, come Fiori, è di Prato, e aveva una carriera precedente in un duo, il Lady in the Radiator, ma questo è stato il suo primo disco solista, che è stato scritto più o meno durante la pandemia, in corrispondenza, diciamo, della fine dell'esperienza col gruppo, e il risultato è molto molto interessante. Vi sprono ad andare a cercare anche altri brani, perché purtroppo con un brano solo non si vede, diciamo, la dimensione intera dell'album, che è veramente degno di esplorazione perché ha varie sfaccettature. Benissimo, rimaniamo sempre sulle voci femminili in questo inizio di puntata di Zibaldone e andiamo ora ad ascoltarci una canzone di Raffaella De Stefano. Forse a molti questo nome non dirà nulla o dirà poco, in realtà è una voce che sicuramente avete sentito qualche anno fa, perché è la cantante dei Madre Blu, che negli anni, a fine anni 90, insomma, avevano avuto un certo successo. Ascolto Isoradio è la canzone che vi proponiamo di Raffaella De Stefano. Voglia di viaggiare. Fausto, ma tu ascolti Isoradio in genere quando vai in macchina? Beh, in realtà tempo fa ascoltavo, soprattutto quando facevo l'autostrada, sai, sono quelle stazioni che trasmettono informazioni sul traffico 24 ore su 24, quindi era molto utile. Infatti mi era anche balenata l'idea di proporre al Banzo di fare uno speciale sulle canzoni dedicate alla radio, però ho detto no, fermiamoci, mettiamola in rapporto Italia. Ascolta, Raffaella De Stefano, no? Dicevo prima i Madre Blu, forse a qualcuno questo nome viene ancora in mente, qualcuno dice, aspetta, i Madre Blu, ma chi erano? Sì, loro avevano esordito a metà degli anni 90, più o meno come ti dicevo i contemporanei con i Delta Via o comunque tutta quella scena synth pop italiana che guardava ovviamente molto alla scena inglese, però con un taglio personale. Loro avevano avuto il brano Gli Angeli, che fra l'altro compare anche in questo album in una versione riarrangiata, che aveva avuto un grosso successo radiofonico, provarono ad andare a Sanremo, hanno avuto brani in colonne sonore, però si sono sciolti mi pare una ventina d'anni fa. Lei, Raffaella, ha continuato una carriera da cantautrice, però centellinando le uscite, credo che abbia pubblicato, questo sia il terzo album in 20 anni, quindi ovviamente con grosse distanze. Fra l'altro anche lei abita adesso, credo viva a Pesaro, quindi Pesaro ritorna sempre nel nostro rapporto Italia, e diciamo che in questo caso si è regalata un album nuovo per il suo 50° compleanno, perché le faceva gli anni a dicembre, quindi al 17 dicembre dell'anno scorso è uscito questo Costellazioni Private, per dire anche nomi che ritornano nella title track, che era un pochino più lunga, non avevamo modo di trasmettere. Intervengono anche Odette Di Maio, che era la cantante dei Sun, Francesca Gastaldi, che era la cantante di Zero Zen, quelli di Zona Bikini, che abbiamo trasmesso qualche mese fa, quindi e fra l'altro questo brano qui, la produzione è di Luca Urbani, che anche lui abbiamo già ascoltato poco tempo fa e che era sempre in quegli anni 90, era il cantante di Soerba, quindi c'è un ritorno ovviamente con nuovi arrangiamenti, però c'è questo elettropop molto raffinato, perché lei ha un'ottima scrittura, ha una voce particolarissima che ho sempre apprezzato, anche in questo caso appunto speriamo che anche possa ripartire dal vivo, ecco, soprattutto anche dopo la situazione Covid che aveva fermato tutto, anche per i gruppi o comunque gli interpreti di quella stagione che abbiamo tanto apprezzato. Eh sì, e adesso da Pesaro in Ravennate o Catania, no? Ne parlavamo poc'anzi, andiamo un po' più a nord, andiamo nelle montagne bellunesi, perché li troviamo in Non voglio che Clara. Ho lasciato i segni sull'asfalto. Che strano modo di andarsene via. Suona la sveglia, suona l'Ave Maria, suona la porta la polizia. Beh, bisogna dire che, insomma, dai, è evidente, si sente l'eco di Lucio Battisti, tra l'altro fin dal titolo, perché questo brano dei Non voglio che Clara Banzo si intitola proprio Lucio. Sì, esatto, è un caso, secondo me, di citazione proprio perseguita con grande convinzione. E nel testo c'è un riferimento a emozioni, mentre invece la musica, secondo me, cita almeno tu, ecco, ancora tu, faccio dei lapsus divertentissimi oggi. E va bene, comunque, i Non voglio che Clara, che sono un mio antico pallino, tornano a distanza di 3 anni circa al Super Spleen volume 1. Questo album è uscito, questo album nuovo che si intitola McKay, è uscito il 24 novembre 2023 per Dischi Sotterranei, etichetta padovana che ritroveremo più avanti. Il McKay del titolo è Ian McKay dei Fugazi e dei Minor Threat, che probabilmente è uno degli artisti che, non so, mi sembra più abissalmente lontani e Non voglio che Clara che si possa immaginare, ma è bello così. Quindi abbiamo queste citazioni che si inseguono, e il brano Lucio comunque è uscito prima, perché era stato apparito nella colonna sonora di un film, Il compleanno di Enrico non sono io, ve lo prometto, di Francesco Sossai, presentato al Festival di Cannes nel 2023. Quindi il brano è uscito alcuni mesi prima. E niente, mi fa piacere ritrovare sempre i Non voglio che Clara con questa classe che li contraddistingue, anche se sono cambiate nel corso di quasi questi quasi 20 anni le sonorità, che all'inizio erano molto più sessantiane e crooneristiche, mentre in questo album sono decisamente più solari, anche se la malinconia è sempre una loro cifra stilistica inconfondibile. E infatti loro presentano questo nuovo disco, no, come un'istantanea che arriva dal passato a suggerirci una chiave di lettura del presente. Andiamo avanti e troviamo un altro artista che si muove in Veneto, anche se lui non è di là, perché è sardo, anche se è un viandante, così si definisce, Andrea Cubeddu, il cognome che, insomma, si capisce che è sardo. Migrazioni è il brano che vi proponiamo, sentitevelo qui. Perderai te stesso. (Susurra) fa paura, temi di perdere la tua natura, ma se guardi negli occhi il diverso da te ci vedrai te stesso riflesso, e indagale un po' queste tue radici, di tutte ste stirpi che maledici. Scorrente il sangue, non volta le spalle alla carne della tua carne. Siamo figli mitici di razze, migranti, non te lo scordare. Scesi dai monti con carre, bestiame sputati dal mare. La terra che hai amato, che ha dato in Natale a te e ai tuoi ali. Lasciata per sempre per ricominciare a sperare nel domani. Come fai ad odiare a morte chi soffre della stessa sorte tua? Apri gli occhi a tempo, figlio del diverso, cogli il cambiamento. Beh, Migrazioni è una canzone, Fausto, che tocca un tema ovviamente all'ordine del giorno e lo fa anche in una maniera molto interessante, io credo anche molto pedagogica, per così dire. Sì, molto, anche molto personale, il tema comunque della xenofobia, naturalmente del rapporto con il diverso, e il titolo d'altronde è Migrazioni, e poi comunque viene da una persona che ha dovuto migrare, perché lo stesso Cubeddu, come dicevi appunto, adesso vive a Vicenza per motivi logistici, naturalmente fare musica dalla Sardegna non è così semplice, lui anni fa per studi era comunque già andato a Milano, e quindi, ed è un cantautore che naturalmente gira da alcuni anni l'Italia con questa sua formula molto essenziale, come hai avuto modo di sentire, voce, chitarra, loop station ovviamente, perché gli effetti non può suonare la chitarra ovviamente chiaramente con tre suoni diversi, naturalmente opera soprattutto con la loop station, e ha appunto realizzato quest'album che è Terraferma, che è uscito poche settimane fa, ed è, diciamo, lui ha dichiarato che nasce dall'esigenza di coltivare il dubbio, e quindi tutti i brani naturalmente affrontano tematiche, diciamo, di attualità in senso lato, naturalmente come legate attualmente alla sua sensibilità. Ed è un autore che ho avuto scoperto per caso, un po' girando per concerti, e ho pensato subito, ma guarda, non l'avevo mai incontrato prima, ho pensato davvero col dispiacere di non averlo scoperto solo adesso, perché è già il terzo album in italiano e ne aveva già fatti due in stile un po' più blues in inglese precedentemente, quindi quinto album, voglio dire, un'ottima produzione, è un attore da seguire, ecco, un cantautorato che comunque ha degli echi anche della sua Sardegna, naturalmente, soprattutto dal vivo, però molto molto filtrati attraverso la sua sensibilità. Sì, assolutamente. Adesso, insomma, lo abbiamo nei radar e seguiremo Andrea Cubeddu, Migrazioni, la canzone che ci siamo sentiti. Il disco, ve lo ricordava Fausto, è Terra Ferma, uscito da pochissimo. Andiamo adesso a Napoli e troviamo un po' di funk con Bassolino. We'll be right back. La Cina è il nuovo centro dell'economia mondiale e AS è l'investimento dell'anno. Investi a partire da soli 250 milioni e potresti guadagnare 50 euro. Che cosa stai aspettando? Milioni di persone hanno già visto la Cina. Investi oggi in AS. Funziona dalla prima applicazione. Vabbè, avete sentito che sono arrivati anche gli spot di Zibaldone. Fausto, la Cina è vicina, potremmo dire così, insomma. Sì, c'è qualcuno che la sta scoprendo solo adesso e chi siamo noi per negare questa piacevole scoperta. Qui stiamo parlando di uno sponsor che è il fondo di investimenti dal nome equivoco, appunto, perché si chiama AS, quindi non hanno forse pensato che, insomma, la traduzione è dall'inglese, però, come dire, chi è che non ha 250 milioni di euro belli pronti da investire per ottenere fino a 50 euro? Uno, infatti, insomma, è un affare. Pensierino, ecco. È un affare. Un affarone. Vabbè, sempre belle le pubblicità dello Zibaldone, gli spot che ci accompagnano. Ascolta, Fausto, ci siamo sentiti un bel funk proveniente da Napoli, Città Futura, il titolo della canzone di Bassolino che vi abbiamo proposto. E tra l'altro, Città Futura è anche proprio il titolo del suo nuovo album. Sì, e fra l'altro è una citazione gramsciana voluta, adesso leggendo anche alcune interviste, proprio in riferimento alla Città Futura, ovviamente il numero unico del 1917, con naturalmente notissimo, è proprio voluto, cioè quindi l'idea, ecco, di dare una visione della società, in questo caso della realtà napoletana, però nel suo insieme, ovviamente, con una specie di colonna sonora, come la colonna sonora di un poliziottesco, diciamo i famosi poliziotteschi anni 70, quindi con tutta la sua carica di funk, di groove che ben conosciamo, che abbiamo anche avuto modo anche di apprezzare in passato, però rivista con l'occhio di oggi e con ottimi collaboratori. Bassolino è Dario, quindi non è un nome d'arte, semplicemente usa il cognome. Nemmeno l'ex sindaco. No, non so se sia parente, quello non abbiamo indagato sulle parentele, può anche essere, però principalmente lui è un pianista, compositore, producer della scena New Jazz, quella che comprende anche i New Genea, i Caman Tigre, sono tutti i gruppi che abbiamo avuto modo di seguire, infatti poi il bassista dei New Genea collabora al disco e alla sua produzione, ed è un disco pieno di musica, pieno zeppo, sono 6 tracce, ma la più corta appunto dura 4 minuti e mezzo, ma mediamente durano sui 6 minuti, quindi davvero molto espanse, e appunto questa immagine appunto ci porta alla mente questa Napoli misteriosa, sotterranea, i cantanti che cantavano della guapparia, gangster metropolitani, però con un occhio naturalmente all'oggi. Eh sì, e andiamo di nuovo un po' più a nord, a Bologna esattamente, per questo brano degli Earthset, che in realtà ci riporta, insomma, indietro di un secolo, ancora più a nord, in Germania. Capirete perché forse tra poco. uno strumentale bello potente, questo La caccia degli Erzsét Banjo. Ci riporta a nord perché, insomma, in realtà ha a che fare con un famosissimo film Nosferatu di Murnau. Esatto, perché questo brano appartiene a un disco, appunto, che si chiama Nosferatu, che è una sonorizzazione del famoso film del 1921 che citavi. Sarebbe interessante dilungarsi sulla differenza concettuale fra una sonorizzazione e una colonna sonora, però non ne abbiamo il tempo e il modo, io lo lascio lì questo spunto, e passo invece a parlare degli Erzsét, che non sono tedeschi ma sono bolognesi, come avevamo accennato, e hanno cominciato a portare in giro questa sonorizzazione nel 2020. E non è una data forse casuale, perché a inizio 2020 è uscito, penso subito prima della pandemia, è uscito L'uomo meccanico, che era un'altra sonorizzazione, un film muto italo-francese del 1921, quindi un anno che piace molto a Erzsét. E quindi nulla, questo disco è uscito il 27 ottobre 2023 e rispetto a questa sonorizzazione portata in live per vario tempo è una versione condensata che esce per la benemerita Dischi Bervisti di Nicola Manzan, che seguiamo sempre con grande affetto. E nulla, è un album interessantissimo, soprattutto se apprezzate sonorità che spaziano fra il post rock e il noise rock, ed è decisamente il mio caso. Eh sì, lo immaginavo, lo sapevamo, ma ci piace molto questa proposta anche per il legame appunto con il cinema. Rimaniamo a Bologna per un altro brano, Vipera, L'allodoletta è il titolo della canzone che ci sentiamo ora. Interessante questa news, lei si chiama Vipera, vive a Bologna, però è salentina, è vero Fausto, con questa L'allodoletta, che tra l'altro è un altro primo disco, una news, diciamo, un disco d'esordio. Sì, è, diciamo, l'esordio sulla lunga durata come album, perché lei aveva fatto un EP, mi pare, 2 anni fa, nel 2021. Lei poi è un classe 98, quindi ovviamente giovanissima, ha già tantissime esperienze, e sono esperienze multidisciplinari, perché scrittura, musica, performance, arte figurativa, cortometraggi, diciamo che ha allargato i suoi orizzonti non ampiamente, ecco, e poi è uscito alla fine del 2023, ed è per questo che lo presentiamo, Acerbo e Divorato, che è il suo primo album. E diciamo c'è anche un pochino di Veneto, perché esce per Dischi Sotterranei, quindi un'altra uscita per l'etichetta di Padova, ed è prodotto da Nicolò Cruciani dei CPC Maxi Gross, quindi, che fra l'altro erano a Rapporto Italia esattamente un anno fa, quindi abbiamo anche in questo caso ritorni di grandi amici di Zibaldone. Ed è questa Lodoletta, è il brano che chiude l'album, fonde in un modo, hai visto, molto, molto sì, creativo, il cantautorato folk e anche lo spoken, perché con il talking, con la fusione anche di italiano e inglese, ed è, ecco, un brano decisamente sperimentale. Cercherò di vederla dal vivo, me la sono persa per poco, perché ovviamente è difficile seguire tutto, fortunatamente almeno abbiamo possibilità, ed è un artista da seguire, e si vede che quindi Bologna comunque catalizza, ecco, la presenza di tanti artisti, probabilmente anche per la funzione banalmente logistica. Bologna è una città in cui tutti più o meno passano attraversando l'Italia, e quindi giustamente. Eh sì, è proprio così, tienici al corrente Fausto. Fausto, grazie davvero di essere stato con noi e ci ritroviamo prestissimo qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda per nuove puntate, nuovi viaggi musicali, non solo di Zibaldone. E magari qualche nuovo speciale, perfetto Steven, allora alla prossima e buona serata a tutti. Buona serata anche a te. Banzo, siamo ormai in conclusione di questa puntata del 22 marzo di Zibaldone, con un ultimo brano di questo Rapporto Italia marzo 2024 e una, insomma, un'uscita e una news davvero importante da questo punto di vista. Sì, diciamo che chiudiamo col brano meno underground della selezione, che di solito si mette all'inizio così per invogliare l'occhio, lo mettiamo a suggello di tutto il discorso, e si tratta di una collaborazione inedita, estemporanea e anche condotta con tecniche di guerrilla hype, diciamo, cioè la collaborazione fra due nomi storici dell'indie italiano, i Cani e i Baustelle. Perché dicevo tecniche un po' da guerriglia, perché o guerriglia in italiano, perché il 6 dicembre la 42 Records, o 42 Records se lo vogliamo dire in italiano, ha mandato un centinaio di copie di un vinile nero abbastanza anonimo, copertina forata, ai pochi, alcuni dischi, alcuni negozi di dischi ancora sopravviventi. E ci sono pochissime, dalla copertina si può intuire molto poco, ecco, e si tratta appunto di una collaborazione tra questi due nomi con due brani che fondono un po' la poetica e gli stili di entrambi gli artisti, quindi abbiamo da una parte i Baustelle, dall'altra i Cani, cioè Nicolò Contessa, con come nome di riferimento il battiato citazionista di quando esce dalla fase sperimentale e comincia dal leva del cinghiale bianco la sua marcia trionfale verso il grande successo, e è ovviamente un nome di riferimento che approvo in pieno. E manca da menzionare il titolo del brano, che è doppio, appunto anche questo viene sottolineata la natura di questa collaborazione, che è Nabucodonosor, essere vivo. Vabbè, insomma, allora adesso li andiamo a scoprire. Ci salutiamo proprio con questa collaborazione inedita tra i Cani, i Baustelle. La prossima settimana sapete che noi andiamo un po' in vacanza, quindi ci ritroviamo tra due venerdì all'inizio di aprile per una nuova puntata di Zibaldone. Grazie di averci accompagnato anche quest'oggi in questo Rapporto Italia marzo 2024. Banzo, grazie di essere stato con noi, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17:54 minuti esattamente, diceva tutti i venerdì. Il titolo di questo brano mi permette di citare anche uno dei miei gruppi preferiti, gli re dell'indie babilonese, il Nabucodonosor Junior. Eccolo lì. Banzo, stammi bene, buon venerdì sera, buona Pasqua a tutti. Nabucodonosor, loro sono i Cani e i Baustelle. Continuo a perdere tu. scompiglia forse i tuoi capelli, un poco dello stesso vento che spirava a Babilonia, che soffiava su altre vite, carovane già passate sulla via prima di noi. Non c'è forse dentro la tua voce l'eco di un amore atroce, l'ombra di una connessione tra i cantanti micidiali della tua generazione e Nabucodonosor. Non scompiglia forse i tuoi capelli, un poco dello stesso vento che spirava a Babilonia, che soffiava su altre vite, carovane già passate. Che gusto c'è a vivere senza mai farsi del male, senza mai farsi del male, senza ogni giorno, ogni notte rivivere il proprio inferno banale, il proprio inferno banale. Sto già a vivere senza mai farsi del male, senza mai farsi del male. Il prezzo di essere vivo è che c'è un serpente dentro il mio giardino, dentro ogni giardino. Sei tuoi capelli, un poco dello stesso vento che ispirava Babilonia, che soffiava su altre vite, carovane già passate sulla via prima di noi.